Altofest 2022 Napoli, questa è Radio Live, questa è la rubrica L'amaro dell'economia e questa è la voce di Giovanni Passariello. Siamo dentro una delle case che ha ospitato la coppia di artisti, una delle coppie di artisti di Altofest, ovvero la casa di Giuseppe Giovinetti e Cinzia Baldassarre. Nel frattempo, mentre noi facciamo Radio Live, Cinzia sta preparando la seconda, secondo turno di spaghettata. Ma no! Sì, Claudia. Che voglia, una fame! Lo so, ma io per questo ho detto 15 minuti, perché dovrei... Ah, anche, ok. Anche vabbè, allora ci interrompete primo, in caso. Il primo turno è saltato, però va bene. E quindi c'è un ulteriore dono della comunità di Altofest che... Non sente, non vede fatica. Domani sentiremo probabilmente tutta la fatica, ma è come dire, è una risposta alla bellezza, perché per fare bellezza ci vuole tanta fatica. E quindi io lascio, in questo momento mi faccio un passo indietro, anzi una voce indietro, e lascio quindi questo momento a Maurizio Lampi e a Claudio Fabris, che vi ripeto, ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici che sono stati artefici e curatori di congiunzione e soprattutto di uno studio di ricerca sull'economia di Altofest, e quindi non vediamo l'ora di ascoltare questo ultimo contributo, quest'ultima pillola che ci stanno donando, e quindi io già in premessa dico grazie. Allora, grazie a voi che siete ancora, come dire, in grado di fare questa cosa a quest'ora, l'ultimo giorno. Io partirei esattamente da dove abbiamo lasciato, cioè quindi ieri abbiamo finito con La mano invisibile di Adam Smith e con questa scoperta da parte mia del fatto che tutti quelli che mi hanno detto per anni che sono una povera utopista idealista in realtà basavano il loro comportamento su cose ben più campate in aria delle mie. E quindi partirei da qui e questa volta proviamo a mettere anche gli inserti musicali che avevamo pensato. Parto. Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. Un riccone avaro e vecchio dice, ahimè, così non va. Vedo nero nello specchio, chissà come finirà. Oh, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà che la crisi finirà. Con un assaggino, diciamo. Bene. E allora, professore, ma costui Rodolfo De Angelis, delizioso, e mi sembra dagli accordi di questa musica fosse degli anni 30, ma chi era? Allora, questo Rodolfo De Angelis, che io ricordo canticchiava con piacere mia madre, quindi ricordo che di sentirla parlare, cantare mentre era in bagno, ecco, così divertente, se vogliamo, nella sua maniera cialtrona, era un sostenitore dichiarato del regime fascista, perché appunto si tratta di un cantante degli anni 30, ma ce l'aveva con chi? Con chi in patria si lamentava delle difficoltà economiche, la crisi che purtroppo stiamo vivendo ormai anche nei nostri tempi da circa 15 anni, e ce l'aveva con quelli che all'estero si lamentavano un po' dei bombardamenti che l'Italia faceva in Etiopia, perché anche noi neanche tanto tempo fa abbiamo invaso uno Stato, usando armi vietate dalle convenzioni. Siamo stati i primi che hanno usato i gas su popolazioni civili, inermi sostanzialmente, e appunto siamo stati sanzionati. Ecco, questa piacevole canzoncina ce l'aveva con le sanzioni e con chi si lamentava della crisi, che c'era, perché il regime fascista doveva gestirla in qualche modo, e anche attraverso le canzoni cercava di così condizionare e ottenere un po' di quiete sociale. Quindi questo sarebbe un esempio di arte, come dire, a servizio delle strutture, come dire, no, non libera di andare nei suoi territori. No, no, certo. Io volevo dirle una cosa comunque, che nel frattempo io ci ho pensato bene e penso, in realtà negli anni ci ho pensato più volte, penso di aver capito come si potrebbero eliminare in un paio di generazioni la maggior parte dei problemi economici che ci affliggono. Caspita, questa mi sembra veramente una grande notizia. E cioè, sentiamo, sono curioso. Allora, facendo una legge che impedisca di ereditare grandi patrimoni, si potrebbe ereditare al massimo un paio di case e una cifra minima per rendere la vita un po' più agevole, ma nessun patrimonio accumulato in generazioni, in modo tale che le disparità strutturali non possano pesare sulla società. E, ripensandoci, nella cultura ebraica, nella struttura sì, di organizzazione dello Stato ebraico antico, ogni 70 anni, mi sembra, tutti i debiti venivano cancellati, se non ricordo male. A me fa quasi tenerezza, veramente tenerezza, pensare che noi davvero parliamo di uguaglianza, di pari dignità, di uguale rispetto per gli esseri umani, lo scriviamo nelle varie carte, che partono in verità questi esseri umani che dovrebbero avere pari dignità, pari rispetto e partono da condizioni tanto differenti e soprattutto che ci crescono in quelle condizioni tanto differenti e hanno a disposizione una rete sociale e familiare completamente diversa. Guarda, quello di cui stai parlando in effetti è uno dei meccanismi più tipici di riproduzione del potere, anzi ha un nome interessante, in sociologia si chiama omofilia, quindi non è riferito alla sfera sessuale alla quale normalmente lo colleghiamo, ma proprio a quella della società, ed è la tendenza delle persone ad associarsi ai propri simili, appunto simili per classe, etnia, religione, provenienza geografica, ma anche percorsi scolastici, scelte politiche o culturali. Insomma, tutte cose quasi sempre accessibili solo per chi gode in partenza di determinate risorse e relazioni, soprattutto. Tra l'altro, se ci pensi bene, ha a che fare col capitale sociale, no? Ne abbiamo parlato, quella somma di relazioni, tradizioni, linguaggi, codici, che è una cosa bellissima per chi ne fa parte, ma anche un rischio di emarginazione per chi ne è fuori. Sì, io di questa cosa mi sono resa conto davvero nelle sue dinamiche, come dire, strutturali e semplici, solo di recente, frequentando un caro amico che ha fatto delle università e un master prestigiosi, e ho visto che con i suoi compagni, che sono gli amici della sua gioventù, delle notti a bere, dei primi viaggi, degli slanci, dei primi amori, delle grandi condivisioni di ideali, si vedono ogni anno. E stanno diventando tutti nel frattempo professionisti importanti, ognuno nel loro campo, ognuno nel proprio campo. E si crea inevitabilmente una rete solidissima fondata sulle relazioni umane. Anche senza grandi complotti, questo basta e avanza a gestire e direzionare il potere in una maniera inevitabile. La famiglia umana si basa su questo primariamente, sulle relazioni. Anche Altofest, dopo tutto, si basa su questo. Allargare questo concetto di famiglia, questo sodalizio, a chi condivide con te trasversalmente una stessa visione ed è disposto a fare un'impresa con te. Sì, giusto. Non vorrei deluderti, ma si ragiona sulla tua proposta di ridurre l'eredità anche qui da circa 200 anni. Davvero? Io non ne ho mai sentito parlare nel dibattito pubblico, non seriamente. Invece sì, purtroppo. È una proposta che viene da lontano. Pensa che era addirittura nel programma politico del padre della patria, americano Abramo Lincoln. E ogni tanto in America torna nelle proposte non solo dei democratici, ma inaspettatamente anche dei conservatori. E guarda, non troppo inaspettatamente a pensarci, perché una nazione fondata sul mito della frontiera, del self-made man, del fucile attaccato alla sella del cavallo, non può accettare tranquillamente che il tuo successo sociale sia merito di qualcun altro. Devi combattere e vincere per guadagnarti il tuo posto nella storia. Guarda, un grande economista, forse il più grande del secolo scorso, John Maynard Keynes, considerava la successione ereditaria niente poco di meno che un residuo feudale. E sai qual è il libro che ha venduto di più negli ultimi anni? Di solito è sempre la Bibbia. No, intendevo un libro di economia. La Bibbia. Brava, ho capito. Ma allora diciamo di economia propriamente intesa, perché la Bibbia, e tu lo sai benissimo, ci mischia sempre anche questioni teologiche, metafisiche, insomma, complica un po'. Beh, se devo essere sincera, a me pare che gli economisti fossero migliori quando erano anche teologi, pensa Genovesi, e che in verità veramente l'economia declini le stesse strutture della teologia in orizzontale, cioè dal verticale le ha passate in orizzontale. Beh, quando dici che erano meglio gli economisti quando erano teologi, sì. In realtà non è una cosa che sia scomparsa, anzi di fatto lo sono ancora, spesso lo sono inconsapevolmente, anzi c'è chi li considera addirittura i nuovi teologi sotto mentite spoglie. Comunque, lo vuoi sapere o no il titolo del libro di economia più venduto oltre alla Bibbia negli ultimi anni? Sì, certamente, bene, voglio sapere. Bene, si chiama Il capitale nel XXI secolo, di Thomas Piketty, che si chiude proprio con una proposta di riforma patrimoniale, cioè una forma di eredità universale che attraverso una tassa consistente sull'eredità dovrebbe garantire a tutti un capitale di partenza. Un reddito universale, appunto. E com'è possibile che in Italia non si riesca neppure a ragionare su una patrimoniale decente? In effetti è proprio così. Una timidissima proposta di un certo Letta l'anno scorso in questa direzione, ma timidissima davvero, ha messo d'accordo in maniera trasversale praticamente tutti i partiti. Hanno cominciato a ragionarci? No, nel senso che tutti hanno risposto che non se ne parla nemmeno. Tra l'altro, nella maggior parte dei casi, senza neanche dare spiegazioni. Ecco appunto. Vedi che forse allora ci vorrebbe un po' di teologia. E allora, professore, se mi consente, se i nostri ospiti hanno ancora un po' di energia, io passerei al mio argomento preferito. Prego, vai. Grazie. Volentieri. La metafisica dell'economia, che poi è il frutto di questo percorso di ricerca di quest'anno, la mia cultura, perché voi sapete che cultura è davvero l'equivalente di coltura e significa solo coltivare, non è di per sé né buona né cattiva. Quando si dice che serve più cultura, bisognerebbe specificare che tipo di cultura. Se coltivi semi buoni, sarà cultura buona. Se coltivi semi tossici o infestanti o sterili, avrai piante tossiche, infestanti o sterili. La cultura è solo la pratica del coltivare, esattamente come l'emergenza è solo l'atto dell'emergere. E a questo proposito a me colpisce sempre molto che Sem in ebraico è il nome. E allora la cultura dipende dai nomi che coltivi. E questa la lasciamo sospesa così. Sì. Adesso vorrei iniziare con questo percorso che ho fatto, con il mio personale guadagno. Ecco, questo è il mio personale guadagno della ricerca, queste riflessioni. Sentiamole. Allora, un anno fa raccontai a mia zia Maria Grazia della ricerca che stavo facendo. Le raccontavo spesso le mie ricerche perché ero curiosa di vedere cosa lei ne pensasse. Mi ha ispirato moltissime riflessioni. E lei mi disse che sentendo una trasmissione in radio aveva ascoltato un ragionamento sull'alchimia, che le avevo parlato di psicologia alchemica di James Hillman, delle pagine che mi avevi inviato, che lei, professore, mi aveva inviato, e che ci avevano trovato, erano stati un grande stimolo per entrambi. No, dicevo, se vuoi passare al tu, io sai che sono... Certo. No, ma mi diverte, la cameriera del professore mi diverte come due avatar. Allora, e gli avevo parlato di questa cosa e lei mi aveva detto che alla fine l'essere umano l'aveva trovata la sua pietra filosofale, che trasforma tutto in oro, ed è il concetto stesso di denaro, che è in grado di dare valore a qualunque materia a cui venga applicato, un pezzo di carta, un oggetto, qualunque cosa. Allora, una parte di me dissentiva, e i ragionamenti che farò dopo si capirà in che modo dissento da questa cosa. Un'altra parte non può che ammettere che in qualche modo è vero. Partirei proprio da alcune frasi che stanno in psicologia alchemica sul, come lo chiama? Un attimo. Sull'estrarre l'argento, su estrarre l'argento, l'argento proprio come metallo alchemico. Allora, vi leggo alcuni pezzettini che dice: un quarto modo di estrarre l'argento consiste nel ricavarlo dal complesso del denaro. Fin dall'epoca romana l'argento è sempre stato il metallo del denaro, tant'è vero che argento in francese, l'argent, è il termine generico per indicarlo. C'è anche solo una piccola parentesi, c'è anche un libro bellissimo di Émile Zola che si chiama proprio L'argent, e si riferisce appunto al denaro. Il prezzo dell'argento fluttua in ragione del prezzo dell'oro, più che in base al suo valore oggettivo. L'estrazione dell'argento dal complesso del denaro è estremamente difficile. Più cala il valore dell'argento, più sembra aumentare il materialismo della cultura in cui esso è usato come denaro. Quanto più i valori diventano materialistici, tanto più argento ci vuole per affermare un valore. Quanto più sono materialistici i valori di una persona, tanto meno argento filosofico si troverà, ovvero tanto meno quella persona sarà in grado di riflettere sul denaro se non in termini di quello che il denaro può comprare. La nozione utilitaristica e materialistica del denaro contrasta con quella che ispirò la coniazione di monete d'argento nel mondo greco. Furono i greci a sostituire il denaro utilitaristico, pani, barre e pesi di metallo, con le monete d'argento di squisita fattura, che recano impresse effigi di dei e dei loro animali. Bellissimo. Ad attestare l'orgoglio delle varie comunità locali. Le monete greche erano lo specchio fedele della religione, della storia e dell'economia greche, nello stesso tempo dell'amore dei greci per la bellezza, una gioia estetica, un paradigma di valore e un tributo agli dei del luogo, tutto insieme. Non c'era distinzione tra i greci, tra commercio e religiosità, e l'argento costituiva la sostanza di questa valorizzazione del commercio da parte degli dei. Da tempo il denaro ha perduto quella copertura argentea, non è più uno strumento di riflessione, ma è diventato invece la trincea ultima dell'antiriflessione. La scusa decisiva che accampiamo quando non vogliamo andare a fondo di una cosa è che costa troppo. Questo tronca ogni discussione e ogni ragionamento. Estrarre l'argento dal denaro significa semplicemente ricordare il valore psichico, il valore per l'anima delle questioni riguardanti il denaro. Le discussioni sui soldi sono miniere d'argento. La paura dei vecchi di rimanere senza soldi, i litigi coniugali sulle spese domestiche, le cause sull'eredità, l'assicurazione, le indennità, tutte queste situazioni possono diventare, sono specchi preziosi che ci indicano dove l'anima è intrappolata nella materia. In essa ci è offerta l'occasione per arrivare, attraversando i livelli materiali quantitativi, a cogliere rispecchiati i nostri aspetti interiori. Ci è offerta la possibilità di vedere il volto della nostra ombra e il volto particolare del Dio che sta dietro la moneta contestata. Ogni volta che prendiamo il denaro nei suoi termini più meschini, lo faccio perché ho bisogno di soldi, siamo tornati a Nerone e a Diocleziano, alla svalutazione dell'argento, al tradimento del valore, ora inteso soltanto come scambio. Non potrebbe darsi il tradimento di Cristo per una moneta d'argento se già l'argento non fosse svilito. L'anima non è venduta al diavolo per denaro, quando il denaro diventa misura del valore, anziché affermazione del valore. L'anima è venduta direttamente al denaro stesso. Io ho trovato queste pagine esaltanti, devo dire. Effettivamente sono d'accordo. Su Hillman c'è poco, bisogna soltanto fare un gesto di umiltà. È bellissimo questo. Sì, è veramente bellissimo, ne consiglio la lettura a tutti. Ecco, da questo che è stato il momento in cui io e lei ci siamo incontrati per la prima volta su un territorio che era comune ad entrambi, Da qui è partita la mia personale riflessione sulle parole dell'economia. Vado avanti perché ero preoccupata per i tempi, sento il profumo di spaghetti. Esatto, infatti vedi, tu hai facoltà sovrumane, come sì, era noto. Sì. Per cui io in effetti, prima di ripassare la parola a Giovanni, andrei verso la chiusura. Che ne pensi? Andresti verso la chiusura e si perde la parte migliore, ma non possiamo farla alla fine degli spaghetti sta cosa? Questa volta è impossibile. È impossibile, va sì. Bene. Allora vi leggo. Diciamo che rimane una sorpresa per la prossima volta. Perfetto. Che si farà questo, perché era il gran finale, quindi rimanete un po' senza gran finale. Ve ne leggo solo un paio. Okay. Vi leggo cash. Vi leggo, sì, cash intanto, che è la definizione che ho scritto di cash. In inglese è il contante, dei soldi è la parte che hai realmente in mano, quella che puoi subito trasformare in altro. Ash in inglese è la cenere, la cedura, la kaf in ebraico, è il palmo della mano. Cash diventa così, letteralmente, tenere in mano la cenere. Che cenere? Se penso al fatto che la prima forma di commercio dell'essere umano è stata con l'invisibile, direi la cenere di un sacrificio. Che sacrificio? Quello della vita, del tempo, della natura, in denaro. Nel sacrificio sacro verticale trasformi una forma visibile nella sua controparte invisibile, la sacrifichi, la separi e le dai vita eterna. Nel sacrificio materiale orizzontale tu trasformi la vita, l'incommensurabile, in qualcosa di finito e definito, misurabile e contante. È uno scambio decisamente svantaggioso e ci perdi anima, ci perdi spirito, che è la parte incommensurabile della vita. Questo era cash. Bellissimo. Poi vi leggo economia, dal greco oikos nomos, credo, le regole della casa. Quale casa? Intuitivamente direi la casa che tutti condividiamo, il pianeta, e poi anche il corpo. E qualcuno potrebbe spiegarmi allora come mai la nostra economia sta sfruttando e distruggendo la nostra casa? Economia è l'eco dei nomi. Il suono dei nomi che riverberano di bocca in bocca, generando conoscenza, mancanza e desiderio. Una fame che muove le relazioni nel mondo, una fama di marchi e famiglie. Se hai successo e vieni riconosciuto, è perché ti sei fatto un nome. Hai continuato l'opera della creazione, poiché in principio era il verbo. Ecco, in questo c'è proprio come se l'economia fosse davvero una religione nuova fondata sulla potenza del nome. Come la religione ebraica era fondata sulla potenza dell'unico impronunciabile nome divino, condividono la stessa magia ma la declinano in un modo diverso. E allora a me viene questo, allora l'economia, se è l'eco dei nomi, se è l'ecologia dei nomi, è esattamente quello che ci serve adesso. Cioè nel senso che una buona economia, ascoltando le parole, essendo l'ecologia dei nomi e l'eco dei nomi, equivale a fare poesia. Equivale a fare poesia. E a me sembra questo molto, molto concreto come pensiero, per nulla campato in aria, ascoltando le parole. E chiudo dicendovi, dandovi una definizione di quello che, della parola che stava dietro al denaro, della parola che sta dietro al denaro, che è l'oro e che sta dentro il lavoro. E perché ci riporta sempre alla parola, perché queste parole, guardandole, sono tutte collegate. Allora, vi leggo la definizione di oro. Oro, il maschile dell'ora che splende. Prima persona del verbo latino orare, parlare e pregare. Io parlo, io prego. Forse perché se qualcuno parla, c'è luce. Or, in ebraico, in effetti, è la luce. L'oro è palindromo, un cerchio di luce, un anello d'oro che non finisce. Orare è letteralmente luce in azione, parlare è far agire la luce ed è un modo di pregare sempre, perché con la parola, come tutti sanno, inizia la creazione ogni giorno. In principio era il verbo, in ogni principio, all'inizio dei tempi e ogni mattina. E Dio disse, sia la luce, e la luce fu, perché fosse venne nominata quella luce che è il nominare. E questo è un anello, un cerchio d'oro. Bellissimo, bellissimo. Grazie Claudia. Allora chiudo rapidamente anch'io. Sì. E, approfitto della palla che mi hai alzato, per usare una metafora bassa, perché io in questa edizione di Alto Fest ho fatto un po' appunto da rappresentante della categoria, e leggo una frase pronunciata da uno dei più grandi economisti del secolo scorso, anzi forse addirittura il più grande, e che scriveva benissimo, John Maynard Keynes, appunto. Questa anzi è proprio la sua definizione di economista, diceva Keynes. Un buon economista non deve avere alcun dono intellettuale di livello particolarmente elevato, eppure deve essere allo stesso tempo in qualche misura matematico, storico, politico e filosofo, saper decifrare simboli e usare le parole, saper risalire dal particolare al generale e passare dall'astratto al concreto, nello stesso processo mentale, saper studiare il presente alla luce del passato per gli scopi del futuro. Nessun aspetto della natura dell'uomo, delle istituzioni umane, gli deve essere alieno, deve essere concentrato sugli obiettivi e disinteressato allo stesso tempo, distaccato e incorruttibile come un artista, ma a volte anche terragno come un politico. Solo che aggiungeva che quindi sono pochi i buoni economisti. Quindi io direi più che un teologo, un genio rinascimentale più che un teologo. Diciamo uno che pensava che l'economia debba stare dentro la società e non che la società debba stare dentro l'economia. Comunque scusa, non era proprio una difesa della categoria, credo. No, su no, questo prego, possiamo prego intenderci. Sì, va bene. Buoni spaghetti, buoni spaghetti. Grazie a noi tutti, Claudia. Sì. Ciao. Ciao, ripasso ciao a Giovanni la parola. Approfitto, io non posso aggiungere nient'altro, non perché mi voglia svincolare a causa degli spaghetti, ma perché è stato molto bello quello che avete detto e quindi aggiungere sarebbe in questo caso superfluo e forse fuori contesto. Quindi io approfitto di questo momento per trovare un altro momento e chiudere al meglio anche questo percorso di ricerca che avete fatto, esattamente, che continuerà, e quindi Radio Live continuerà ad accogliere e ad esistere grazie a questi momenti di apertura in questo caso poetica, poetico, economico, teologico. Beh, abbiamo appena scoperto che poesia ed economia sono la stessa cosa, ragionando sulle parole, quindi questo quindi è molto interessante. E quindi approfittando di questo dispositivo che è la radio, anche fare un bel discorso di ascolto ecologico, grazie a voi, sarebbe molto interessante continuare. E quindi vi ringrazio, grazie mille Claudia, noi non vediamo l'ora di riabbracciarti e averti qui, oppure noi veniamo lì. Sì. E un grandissimo ringraziamento a Maurizio Alampi, e un grazie ad Alto Fest che esiste, che ci dà... bravo, sì, bravo, grazie ad Alto Fest che esiste, è perfetto. Esatto, che ci dà la possibilità di incontrarci e farci delle domande da un altro punto di vista, forse è la cosa che è il modus operandi e vivendi di cui abbiamo bisogno. E grazie a Radio Live e grazie di nuovo a Cinzia Baldassarre e Giuseppe Giovinetti che ci hanno completamente ospitato nel salone mentre loro stanno cucinando gli spaghetti, quindi... Questa è proprio la rappresentazione di Alto Fest. E grazie a Giovanni Passariello che è stato... Ma prego, io sono Passariello, ma sono anche... Ma mi ricordo che tipo era Alto Fest, ma della Basilicata, che si coniò questo termine sul mio cognome. Perché Passero. Perché no, oltre Passero è il contronome di famiglia. Passero solitario, non ci sta sempre. Ah, vabbè. E invece no, che mi sono scoperto a Matera Basilicata grazie all'Alto Fest un buon passeggero, cioè colui che passeggia, ma soprattutto colui che fa il passaggio tra una voce e l'altra. E questo è un bel luogo in cui ascoltare e farsi tante domande e quindi farsi domande con il sorriso, non con la tristezza di colui che non sa rispondere, ma di colui che ha bisogno di riflettere. Bravissimo. Grazie mille, vi voglio un sacco di bene. Ciao. Tanto. Ciao. Ciao. Ciao. Mangiate ciao, anche ciao. Per me. Okay, ciao.